attenzione, canale 10, canale 10, che è l'assolto, cambio. Attenzione, canale 10, canale 10, che è l'assolto, cambio. Ora nessuno. Faccio fare un po' di benzina, però non ho visto. Non è il tour. Cioè, ti spiego. Attenzione, canale 10, gappa! Avanti su 10. Attenzione, binario 10, cambio. E avanti, chi è? Gappa, sei un po' basso, ma già ti sento, non dici a Pucciodorra? Che è davvero una propagazione, che è una cosa incredibile. Ma non so come mi senti tu a me. Io ti ho sentito P.O.P., adesso c'è un casinotto, c'è. Ma chi sei, cosa? Marco sei, dentro la chiesina di Balai. Gappa. Marco, non so come mi ricevi tu, però io un po' disturbato, perché c'è parecchio QRM, c'è, quindi un po' capito. Sai che sei cazzo di indigeni, mi so che ti tappano un po'. Hola. Attenzione, 10, gappa. Adesso ti sento un po' meglio, dove sei? Gappa. Sarola. C'è un casino, proprio un casino proprio. E già arrivi qua. E lì ce n'è parcheggio. Sì, via. È un casino, c'è. E là non hai provato dove c'è il mar della torretta. Cosa? Ehi Marco, dimmi. Una battumina, un casino che non ti dico. Ogni tanto riesco a tirarti fuori, ogni tanto no. C'è proprio gente che arriva forte qua. Mi senti a me? Sento Marco, c'è qualcuno che è entrato. Attento Marco, mi senti? Ok. Lui lo senti a Marco? E dove è Marco? No. Sì, tutto saturo, l'ho detto tu. Aspetta che ti sto arrivando troppo forte, aspetta che abbasso un po'. No, c'ho lo scotch chiuso, tu. Vabbè, continua. Ciao. Meglio va? Guarda se va bene adesso. Meglio. Già uso qui una cosa. Troppo ingresso li stai dando. No, è che in vicinanza magari spinge troppo, ecco, non c'è questo problema con cosa. Se lo spengo tutto va bene. Spengo tutto. E cosa ingresso? Sono a 4 watt, neanche 4 watt. Ciao, se ti attacco il remeter ti faccio vedere con tutta la potenza che tu mi ascolti sempre bene. Aumenta solo il segnale. Non lo so, in lontananza non lo fa. Beh, è normale che non lo fa in lontananza, ma non lo deve fare neanche in vicinanza se lo piloti bene, tu. Capito? Anche il 747 a me non mi ha mai detto nessuno stai saturando in vicinanza. E invece perché gli davo 2 watt e 2 watt e mezzo in ingresso? Se spingi troppo ti sento anche io così, ma è una cosa normalissima, Adesso siamo sui limiti, però se spingi di più del solito ti sento anche io così, sono cose normalissime però, Con questo sì, con questo sono 30 watt. Ah, non ho toccato, era acceso, era già così. Sono 30 watt adesso. Ma solo di radio, se aumento la radio tu mi senti male, guarda, così tu mi senti malissimo a me, ma perché sono anche un metti lì. Oh, lascia perdere. Non è la potenza tu. Tu stai aumentando la potenza, ma non stai pilotando l'ingresso bene. Capito cosa ti voglio dire? L'ingresso. Io se aumento la potenza qui, non mi senti saturo a me. Certo, non lo so, in lontananza non lo fanno, mi sentono saturo. In vicinanza ho questo problema. Però se attacco quello a valvole non succede nulla. Con 747 almeno me lo facevo. Vabbè, riprendete la ciaccia. Ciao Luca Flin. Ciao, chi mi ha salutato, ciao. Marco ti ha salutato. E Marco, ciao, forse un migliaio di messaggi miei, ma è come qualcun altro, li vede ma non risponde. Ciao, ciao. C'è una propagazione folle qua, ti copre quasi. Non mi copre. Anto, a te ti copre, a Luca no. Ho pochi watt. Attento Marco. Vedo un gasino di propagazione, Bobo, non conviene portarsi il baracchino quando c'è propagazione. La mamma non lo viene tanto. No, chi sei? Avevo il volume a zero. A dove ne ho sono? Guarda a vedere. Là. Là. Vai, spingi. Sì, si sente, Antonio. Guarda che adesso sono un fattetto. Sono stava, però guarda, come uscivo poco poco più in là, la propagazione quasi scopriva. È allucinante. Ma che ho dovuto abbassare, ho dovuto. Adesso già c'è il segnale bello forte adesso, Ma sai che c'è un casino? Non si capisce una mazza da parte mia, magari Marco ti ascolta bene, ma qui sei proprio incomprensibile. Sto spingendo parecchio adesso per farmi sentire da Marco. Cappa, vabbè, se ho tappa posso anche spegnere. Aspetta un attimo. Ah, lascialo, se stai parlando con Marco lascialo. Ehi, dicevo, qua Antonio lo copio, diciamo che è molto ricco di toni bassi, ma con questo altro parlantino misero, piccolo, che c'ha pochi bassi, riesco a copiarlo. Poi che metto l'altro che c'ha le cose, che su bastardo. Come mi senti Marco? Con cuore bombante. Cappa, questo qua è cosa, come capo si chiama? Ma... Superstar con Marco Lindec. Ehi, deve essere il Mike che fa quella timbrica lì. Ebbè, il coso è l'M600 della Indec. Cappa, mi senti bene di una tappa? Cappa. Vabbè, bip è classico, no, di quegli apparati là, però c'è un bel po' di effetto stampa, tutto lì. Qua viene, qui c'è un baracchino ogni volta che si mette una rogna, o c'è FRM, o non c'è un'anima, c'è protezione di tutti, boh. Sei attento già nel corpo. Oh, anche il mare era spettacolare. Sembrava olio, era appena ondulato, ma vedevi le striature tra le zone profonde e le zone meno profonde. Critica, ma il mare è bello qua, Critica, ma il mare è fantastico. E anzi, difficoltà a capirti per la timbrica. Aspetta, va meglio così? Sì, più o meno, dai, più o meno. Noi siamo anche a vetri mezzi aperti, Il clima non lo metto perché mi fulmina, mi crepa. Cappa, guarda se va bene così. Sì, è già meglio, già molto meglio. Sarà... non c'è una grande potenza, però adesso va bene. Dimmi. Marco, è qua, è 9.10, se no che è 9.15. Ma quando mai non ti sente? Cioè devi attaccare il coso per farti sentire. Ma come si ha? A cosa? Ma a Caragone, sì. No, adesso l'ho spento, prima era un po' più lontano. Prima era un po' più lontano, ora va un po', capito. Sapevi la boomerang, ma la boomerang, la che sa che proprio era un cacone da che abbiamo preso, ma sulla mari. No, no, ora va bene, perché già, è già arrivato in zona, lo c'ha. Ma prima Luca, oh, non so se sto uscendo nemmeno. Sì, sì, già stai uscendo, però che forse stavo spingendo un po' troppo, non era il caso, perché sei vicino, sì, quindi mi senti lo stesso. Ma forse Luca alludeva alla distanza, prima quando ero sulla Tamora. Praticamente, come dire, quando è stato, Luca lo sentivo bene di segnale, tu eri però coperto quasi una propagazione, capito? Vabbè, c'era qualche differenza, c'era. E che differenza c'era? È che io ce l'ho davanti il mare, tu ce l'hai coperto, perché l'antenna tua è bassa anche, capito? Ce l'hai molto coperto. No, vabbè, io ce l'avevo 5 watt solo. Appunto, perché se l'ho fatto devi per forza di attaccare. Io ce l'ho aperto il mare. Voglio di posizioni diverse, magari, boh, vabbè, non è che ci sia tanta differenza da... Magari c'è una posizione un pochino... magari mi copre quel palattone, giusto? Però siamo lì, dai, diciamo. È una classe che copre a te. Fa vedere la mia antenna, tu sali sul tetto. Capito? Ti copre di brutto. Qui la qua mica la vedo la tua antenna. Sai che se fosse mia faccio, la qua la vedo. Perché vuole, non dico molto, ma un 4 metri almeno ancora, con l'antenna lì vorrebbe salita, alzata, almeno 4 metri almeno, capito? Perché tu c'è questo palazzo davanti che ti copre parecchio. Bisogna buscare un tubo e si fa. Io pensavo che non andasse bene quello di quello massiccio che c'è là. Dovete tu mi hai detto che va bene? Sì, ma è sempre 2 metri, 1,80 m, 2 metri. Capito? Almeno altri 4 bisogna salire, non 2, 4. Se no non cambi più di tanto, infatti se lo fai direttamente bene, buco. Uno innocenti direttamente, insomma è un casino su quel tetto fare tutto con un tubo, cioè finché sono due persone è un conto, una persona sola col tubo innocenti 4 metri o 5 metri più l'antenna è un casino lì con quella tipologia di tetto, capito? Due persone sì, riescono, poi si tiranta e sei tranquillo, ma capito, almeno 6 metri, allora sì che ragioni, esci dalla parte del mare, esci bene, perché tu lì sei praticamente in discesa, capito? Sì, vabbè, forse porto torre se c'ho davanti, forse, no, non ne ho idea, però secondo me sì, dall'altra parte è aperto, tutta l'altra parte è aperto. Hai aperto sul vacco di Freddanieda, quella zona lì, Alghero forse, però dritto qua no, i Petini, quelle zone lì, no, assolutamente. Vai, continua. No, Marco, dove sei arrivato? Sono in viale Porto Torres, dai. No, conta che è un'antenna piccola anche, quindi non ho l'antenna da 1,60, c'ho quella da 98 centimetri, dai, meno di un metro. Pure sei forte adesso, eh? Ma perché ne metti di quell'antenna e non esce un cazzo? Metti la lunga, l'antenna vuole lunga. Buonasera. Buonasera a tutti. Ciao Natali, credevo che fossi ai Caraibi. Sì, altro che ai Caraibi. Sono mezzo morto. Mi sento ben male. Non sto entrando per quello. Perché non mi sento bene. Cosa vuoi dire? Non so fare pina. Natali, ma sei in abiti civili o in maniche di pigiama? In maniche di pigiama, cioè, perché? No, che passo sotto fra poco, era, vabbè, niente da fare, dai. Era per salutare mamma, era, dai, niente, dai. Salutamela da qui lo stesso, ma prova, e poi non potevo scendere neanche, perché non potevo camminare, ma sono messo male veramente, qua. Ho sentito che è un periodo un po' brutto per te. Da, passerà, prima o poi passerà. Mamma mia, c'era un carnaio lì sulla costa, dai, non faceva fermarsi a pigliarci un caffè, nulla. Tutto pieno, anche in pinetta erano. In sosta, in pinetta. E se ti fermi te lo invito io il caffè, così lo porti anche a tua mamma. Se lo faccio con la macchinetta, ci metto 5 minuti. Capito Marco? No, aspetta che c'era, ero nell'incrocio, era una situazione un po' delicata, dimmi tutto. Ho detto, se ti fermi 5 minuti vicino al vicolo, te lo faccio scendere la mia moglie il caffè, a te e a tua mamma. Vabbè, Natalia, come ricevuto, Nato, tanto qua non ci sarebbe posto nemmeno fermarsi, manco qua, se ti vedi. Come ricevuto, dai, non avremo, già non mancherà occasione, dai. Sì, ok. Se c'era posto nel vicolo, potevi entrare nel vicolo appena appena con la macchina e ti potevi fermare. Sono già oltre, sono davanti al mercato. Peggio per te allora, sarà per un'altra volta. Va. Mettiti l'antenna lunga però, Marcolino. Quando vai fuori, mettiti l'antenna lunga che imbatte di più. Eia, però, contata lì, questa è l'antenna da un metro di antenna. Però anche 15 watt qua, 13, 14, anche 15 watt. Sì, ho capito. Però con lo squelci chiuso non ti sentivo io. Capito. Cosa ti volevo dire? Esci meglio con l'antenna lunga, capito? Metti 15 watt a voglia e imbatte. Ma ora per sfoggiare ogni tanto anche questa antenna qua, quella tipo B-banda, è mi. Sì, ho capito qual è. Mettiti l'antenna lunga nel cofano, così quando devi uscire ti metti quella, quando devi uscire fuori strada, diciamo. Quella arriva bene per città, la piccolina. Sei arrivato, Marco? Sì, quasi in Viale Trento, dai. E a te con questa giornata bella se ne sei potuto uscire, Marco, io tutto il giorno in prigione sono. James Moore, I might be transmitting a little high. I don't know, I was cleaning my radio. I was watching 39, attenzione Natalino, ci sei ancora? Sì, che ci sono. Sono Paolo Antonio, un attimino stiamo vedendo l'impianto, ok? A dopo, ciao, saluta. Ciao Natalino. Saluta Concetta. Grazie altrettanto, ciao Anzu. Tanto caso, nemmeno la sentenza che ci abbiamo. Inizia a parlare, inizia a sentire, però come si muove appena, basta un soffio, il respiro, come... No, si abbassa perché di più. Natali, scusa, c'era il box 24, ciao di nuovo. Sì, yeah, no problem. 3, prova, prova. Prova. Eccolo qua, prova. Prova, 1, 2, 3, prova, mezzo metro, 1, 2, 3, mezzo metro, 30 centimetri, 1, 2, 3, 10 centimetri, 1, 2, 3. Andavo. Oh, ciao Antu. Mi ho disseppellito adesso un microfono da palmo, quello più nuovo, che nonostante il cassetto fosse ben chiuso c'era tutta quella polvere impalpabile, fine. L'ho spolverato col pennellino e volevo vedere se stava dando scariche dallo slider oppure no, o dal PTT. Ma credo che stia andando bene, vediamo se muovo il PTT, guarda. Sì, questo è il microfono ideale da portare in macchina. Te lo poggi sulle gambe, mentre moduli, così nessuno vede che porti roba alla bocca. C'è anche l'adattatore per tanti baracchini, c'ho due adattatori, uno per quello che l'attacco è come RG45, uno invece da 6 poli a 4 poli, quindi se è valido la lotterò. Adesso è a manetta, mi sto muovendo un pochino. Vediamo se lo metto lontano, così è lontano tutto il braccio, vedo che va, caspita. E va anche molto bene, va anche molto bene, ho visto. Un attimo ti saluto che va a farmi la doccia e ho preparato la cosa per andare a lavorare, ok? Ehi Anto, ciao, buona doccia, io tanto qua fra poco inizio a cucinare qualcosa per stasera. Ciao, buona serata.